l'iniziativa contro Vauro mi sembra abbastanza ridicola. C'è una grande tradizione nella satira, della satira di guerra, della satira sulle stragi, sui morti, e non si capisce perché la satira di Vauro debba essere punita. Per quanto riguarda in generale l'informazione di Anno Zero, io credo che abbia riempito un vuoto, nel senso che l'informazione globalmente non si è occupata e continua a non occuparsi della mancanza delle misure di prevenzione che avrebbero potuto limitare i danni e limitare il numero delle persone decedute. Io credo piuttosto che vada messa sotto accusa, non censurata, ma che vada compiuta una grande riflessione critica sull'informazione nel suo complesso, soprattutto l'informazione radio televisiva, che in questa circostanza